Aiuole fiorite sono spuntate dal nulla, i palazzi un po' scrostati, quelli che non piacevano a Berlusconi, sono stati impacchettati con enormi striscioni con le riproduzioni di palazzi bellissimi. Se sei in via Lorenzo ci sono delle pantegane morte per strada, ma le finte facciate ti fanno illudere di essere a Versailles. Questa è Genova, a meno 2 giorni dall'avvio del controvertice pacifista. Questa è Genova, a meno 4 giorni dalla sua completa blindatura. Questa è Genova, a meno 6 giorni dall'inizio del vertice ufficiale. Susan George, Walden Bello, rappresentanti di movimenti come Semterra e Attac, apriranno il ciclo di incontri e conferenze organizzati dalla Genova Social Forum a partire da domani, lunedì. Il titolo è Un altro mondo è possibile. Il programma prevede più di 200 interventi, 60 saranno i rappresentanti di associazioni e di reti del sud del mondo. I contenuti sono quelli di una globalizzazione che non si vuole puramente economica, di mercato, ma politica, democratica. In 5 sedute plenarie si affronteranno i temi cardine del movimento: cancellazione del debito, diritti di cittadinanza, redistribuzione del reddito, salute e lavoro. Questa fase della globalizzazione ha portato a alcune cose molto concrete: la privatizzazione della terra dovunque, la privatizzazione dell'acqua. Sappiamo che 800 milioni di persone sono praticamente senza acqua in questo momento, e anche la tecnologia ha portato alla creazione delle sementi, diciamo così, sterili. Ossia, il contadino, che esiste in centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta, è minacciato di perdere la terra, l'acqua e la sementi. È ovvio che il contadino reagisce, si organizza, si confronta e riesce a capire dov'è l'inimico, dov'è la questione. Sono pochi gruppi che vogliono il controllo della terra, dell'acqua e delle sementi. E qui si organizzano e combattono. E questi combatti sono forti in Filippina, sono forti nell'India, nel Pakistan, sono forti sì anche nelle Americhe del Sud soprattutto. Questo lo fa alleato automatico anche di quelle persone delle altre parti del pianeta che sentano in sé e la minaccia di questo tipo di globalizzazione. Noi non abbiamo mai riconosciuto la legittimità al G8 e quindi ne chiediamo la cancellazione. È successo che un gruppo di 25 giovani provenienti dalla Germania in bicicletta per raggiungere Genova sono stati bloccati alla dogana di Chiasso e respinti. A 3 di loro è stato applicato un decreto, erano indesiderati nel nostro paese, su segnalazione delle autorità tedesche, con tutta probabilità. Questi giovani sono ritornati indietro, gli altri potevano passare, ma in segno di solidarietà hanno continuato a stare con loro. È stata occupata, in collaborazione con un centro sociale di Lugano, una casa per l'alloggio per la notte, con un avvocato. Abbiamo contestato questo provvedimento e il provvedimento è stato annullato come illegale e adesso stanno formulando un altro decreto per impedire l'accesso a questi giovani. Forse il problema è che non c'è o non c'è stata fino ad ora una linea di comunicazione tra noi e loro per far comprendere che in gran parte i loro obiettivi sono anche i nostri, sono gli obiettivi di chi ha ricevuto democraticamente la responsabilità di governare. È per questo che tenteremo di stabilire quella linea di comunicazione per creare con le organizzazioni della protesta un modo, un'occasione, uno strumento per comunicare. Un uso strumentale della richiesta del dialogo, anche perché, ripeto, lo continua a dichiarare su ogni media, ma ad oggi non ci è arrivata nessuna convocazione diretta, ripeto, per un incontro sulla possibilità di accedere a Genova, di avere la garanzia di avere le frontiere aperte. A tutto ciò non c'è risposta, ci sono delle dichiarazioni di apertura a cui però invece fa seguito solo una grande militarizzazione della città di Genova. Questo doppio binario credo che serva a Berlusconi poi per poter dire un domani: la responsabilità ovviamente ricade tutto sul movimento, io il dialogo l'avevo cercato. Ma il tutto deve svolgersi, lo ripeto, nella più rigorosa esclusione di ogni forza di violenza e nella più gelosa tutela dell'ordine pubblico. L'ala estremista del movimento contrario alla globalizzazione deve essere isolata e messa in condizioni di non nuocere. Auspichiamo che anche le opposizioni si facciano carico di evitare a Genova lo spettacolo drammatico a cui abbiamo assistito in molte città del mondo e da ultimo nella pacifica Göteborg. Si dà una sorta di patto ideale con i cittadini genovesi, ai quali diciamo che anche come noi cittadini genovesi non intendiamo, non abbiamo come obiettivo la devastazione della città, ossia noi intendiamo praticare un obiettivo che è quello di bloccare il vertice del G8, ma crediamo che sia opportuno non disperdere minimamente né energie né risorse rispetto ad altri obiettivi e comunque in un sostanziale totale rispetto della città, delle sue strutture e dei suoi cittadini.